Hasta ahí le puedo decir. La scrittrice danese Karen Blixen descrisse molto bene il fluire della materia di cui siamo fatti. La cura per tutto è sempre l'acqua salata, il sudore, le lacrime o il mare. Un Murimuina obietterebbe che alla Blixen manca la conoscenza dell'elemento curativo per eccellenza, l'ambil, iera in lingua Murimuina. L'ambil è un composto a base di sali vegetali e decotto di tabacco aspro e pungente, che risveglia le forze vitali, elimina i parassiti intestinali, mette a tacere i pensieri più futili, cicatrizza le ferite e placa persino le ragioni del pianto, cristallizzando il sale delle lacrime. L'ambil si prepara cuocendo le foglie mature del tabacco per estrarne l'essenza, che viene addensata in un brodo di amido di manioca, semi di macambo o altre sostanze vegetali. Il composto viene miscelato con i sali vegetali estratti dalle ceneri di una varietà di palma. Cuore, cortecce e fusti inceneriti vengono filtrati tramite l'iscivazione e poi vengono trasformati in sale con l'eliminazione dei liquidi. La salgemma che ne risulta è di tipo alcalino, ricca di potassio, a basso contenuto di sodio e molto diversa dal cloruro di sodio con cui condiamo i cibi sulle nostre tavole. Nella concezione amazzonica, l'ambil è una panacea amara per le papille e portatrice di virtù. Tutte le piante e gli esseri viventi sono composti da una miscela di acqua e sali minerali. A conti fatti, siamo acqua e sale. Acqua e sale perennemente in circolo nella materia viva che piange, suda e sanguina. Una buona definizione di storia potrebbe coincidere con lo scorrere di questi due elementi nei corpi, sudori, mari di lacrime e fiumi di sangue nel tempo. Come sostengono Blixen e i Murimuina, il rimedio a questo fluire di acqua e sale, al fluire della storia, è comunque acqua e sale. Come disse Harima, un Murimuina del fiume Caquetá, il cui nome significa sale pungente di palma di Canangucho, l'ambil esiste per alleviare il fluire agitato dei corpi. Consumare ambil serve a raffreddare membra e anima, asciugare lacrime e chiudere ferite. Leccare ambil aiuta a mitigare i bollori e a osservare il mondo con lucidità. Passaggi indispensabili per trovare parole non distruttive che concorrano al dipanarsi della vita sul pianeta, dall'organizzazione del lavoro alla celebrazione dei balli, dall'elaborazione dell'arte allo scambio di cibo. Il pianeta azzurro, che per la teoria dei colori dei Murumuina è azzurro-verde perché le due tonalità hanno lo stesso nome, appare come una grande roccia minerale coperta di acqua salata. «La Terra è azzurra!» esclamò sorpreso Yuri Gagarin nel 1961. Fu una delle prime frasi pronunciate dall'uomo là fuori, nell'immensità imperscrutabile dello spazio. Se il cosmonauta fosse stato un Murimuina, avrebbe detto «La Terra è mocorede!» Azzurro-verde. Tutti gli elementi chimici formano la struttura dell'universo. Modellano i pianeti, plasmano la luce e il colore degli astri. Gli elementi della tavola periodica plasmano in infinite combinazioni tutto ciò che esiste. Siamo un flusso continuo di polvere di stelle, sosteneva Carl Sagan. E acqua e sale.